niente, ecco. Vabbè, che se stava, dai, intanto a fare gasolio e dopo come ho detto scarico, può fare a parte le altre che vuole dare degli altri nel frigo. Ah, buone, tutto quello non pensare a stare così bravo, quando non potete andare al sole. Ma viene detto, ma deve essere che hanno detto che era urgente, ma ne bocce e mezzo. E meglio così, non sei contento. Sì, io lo grido. Allora manco. Oh, yeah. Risolviamo uno dei problemi. Aspetta un attimo, Natale, avevo subito. Sì, yeah. Sarà il dubbio. E beh, Natale, uia, mamma mia, è un brutto vizio mangiare le natalità, è un brutto vizio abbiamo compreso. Ripeti che non c'era la 50 che stava parlando. Ho preso un brutto vizio a mangiare. Sì, ma più brutto è quello, come quello che c'ho io, che avevo il vizio di lavorare. Come tutti, cosa arriva? Se non si lavora, non, come hai detto la carta, se non fa l'amore, se non lavora non fa l'amore. Lui è vero. Così è. E così io smontato alle 2:30, sono arrivato a casa, mi sono cucato, mi sono bisogno uno lavare, adesso ho mangiato, me ne bene. E domani mattina, domani alle 2:30 sono di servizio. Se tutto va bene, forse ce l'ho fatta Natale, se tutto va bene. A parole, già lo sai, sono. Com'è la furia, Manuel, che cioè, mia moglie sta continuando a parlare, non capisco né a te né a lei. Ho detto, se tutto va bene, si entra lì dove ti stavo dicendo, non lì, da un'altra parte però, uguale al Marta. Ho capito, speriamo gatto che vada tutto in porto. Almeno c'è il cazzo tutto il contributo, ma lo c'è così non ti pagano neanche di più su questo scemo. Infatti. Alleluia. Hai fatto bene a ticcarti male di Drigo. E io sto sempre a cercare, io appena sono sicuro e qui il casco me lo avvenito, ma mai più farò. Mi voto la gloria qui. E infatti. Non fa. E quando me ne andrò io stanno male, ma male. A chi non sono tutti come te? Male. Ce ne dobbiamo andare, io e un altro collega, i più vecchi. Chi è la Migliarona, chi su? Poi vediamo che cazzo ci prende. Beh, Manuel, dai, io devo mangiare fra un po', ti lascio e me ne vado a preparare qualcosa. Dai, ci sentiamo, che non mi sento neanche tanto bene, che ho sempre con bici d'urori. Ci sentiamo, Manuel, grazie per le quattro chiacchiere, alle prossime, dai. Sì, no, stai tranquillo, ora ce la riascoltiamo alle prossime.